Alleluia. Alleluia. Alleluia. Svegliati, o tu che dormi, e Cristo ti illuminerà. Destati dai morti, e Cristo ti parlerà. Alleluia, alleluia, alleluia.